America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero, beh, siamo ormai vicini ai 6 mesi alla presidenza di Donald Trump. Devo dire, sono 6 mesi che sembrano quasi 3 o 4 anni già, perché è successo di tutto, virate di 180 gradi, per esempio anche nei rapporti con i suoi più fedelissimi, dimissioni entro un mese del consigliere per la sicurezza nazionale, l'esplosione del Russiagate, il licenziamento del capo dell'FBI, le liti a distanza con la Russia e poi i cinguetti con Vladimir Putin, la freddezza con la Merkel, 3 viaggi in Europa, un super vertice in Arabia Saudita che ha raccolto una 50ina di paesi islamici, vari tentativi di portare in avanti questo ordine esecutivo che doveva impedire l'ingresso di islamici da 7 paesi sospetti di collusione col terrorismo. Insomma, è successo davvero di tutto, una grande intensità. Ora, normalmente davanti a un grandissimo attivismo di una Casa Bianca, di un presidente, in genere, beh, ci sono dei risultati positivi. Invece Donald Trump, purtroppo per lui, dico, non è riuscito a portare a casa quasi nulla. La notizia peggiore in questi giorni è che di nuovo il famoso progetto per la riforma sanitaria di nuovo incontra difficoltà, ma soprattutto alla fine di questi 6 mesi non ci sono stati grandi riforme. Appunto, il tentativo di varare un progetto di riforma sanitaria non è andato da nessuna parte, il progetto fiscale è stato annunciato ma anche lui non è andato da nessuna parte, l'importante progetto per il rilancio delle spese infrastrutturali su cui si trovano d'accordo sia democratici che repubblicani è fermo. Insomma, non c'è stato, a fronte di un grande attivismo mediatico, un risultato in termini concreti. E dunque, qual è alla vigilia di questi 6 mesi il risultato purtroppo non incoraggiante per Donald Trump? Sentiamo. President Trump defending himself in the face of historically low approval ratings 6 months into the job. Just 36% of Americans approve of his presidency, the lowest level at this point in 70 years of presidential polling. Ecco, questo è un sondaggio del Washington Post e della ABC News. E c'è un crollo dell'indice di gradimento nei confronti del presidente, un crollo al 36% rispetto al 42% dello scorso aprile, ed è un risultato davvero mai raggiunto prima da altri. Ecco, come reagisce Trump? Beh, reagisce naturalmente all'attacco e con distacco, una combinazione che lui ritiene vincente, perché intanto è andato a giocare al suo golf privato a Bedminster in New Jersey, tornando dal viaggio in Francia, che è stato un viaggio poi di un certo successo, ma soprattutto ha attaccato con i suoi soliti Twitter questi sondaggi. Il tweet dice: i media distorcono la democrazia. Il sondaggio ABC Washington Post, anche se quasi il 40% in questa fase non è male, è il sondaggio più impreciso mai visto. Ma quel che dimostra, secondo me, quanto si trova in difficoltà Donald Trump è che improvvisamente è tornato ad attaccare Hillary Clinton. Insomma, quello è un capitolo chiuso, ha ripreso le 33.000 email, ha ripreso tutta una serie di polemiche che dominavano in campagna elettorale. Dunque adesso Donald Trump sta cercando di rilanciare con 3 iniziative. Ogni settimana ci sarà un tema, a partire da oggi, a partire da questa settimana: Buy American and Hire American, comprate americano e assumete gli americani. E poi altre 2 settimane sempre a tema, la seconda che sarà dedicata agli eroi americani e alla fine la terza, il sogno americano. Ecco, non so se queste così divagazioni mediatiche potranno servire a rimettere in carreggiata questa presidenza di Donald Trump, che obiettivamente a 6 mesi dal suo inizio si trova in gravi difficoltà. Ci sono litigi all'interno del suo consiglio di ministri, ci sono litigi alla Casa Bianca fra i suoi più fedeli consiglieri, c'è il suo avvocato che si trova in difficoltà perché non riesce a gestire fino in fondo il Russiagate. A questo punto Trump ha deciso di assumerne un altro, anche il figlio ha assunto un nuovo avvocato. Insomma, Trump dovrebbe fare semmai adesso un passo indietro e cercare di serrare le fila, quantomeno con il suo partito, per portare dei risultati concreti. Ma riuscirà prima dell'estate, per esempio, a varare una riforma fiscale? Non sarebbe male. Questo sì che potrebbe fargli rimbalzare i sondaggi. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!